Ti sento anche senza rumore, bugie con un dolce sapore. In fondo è migliore di essere. Ti sento suonare e chiamare il mio nome sui tasti di un campionatore. Ma forse non voglio sapere adesso. Se in giro parlerai di me, poi di me, per farti notare solamente. Uomini parlano per me come se mi leggessero la mente. Ma la mia vita non è una premiere di Broadway, i titoli che infamano per due soldi. Tu che riparo sei per me, sotto la pioggia non mi dici niente. Non capisco se mi ami, mi odi, mentre un'altra notte brilla sul mio body, body. Baby, move your body, body. Mi ami, mi odi, spengo queste voci mentre faccio voguing, voguing. Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi. Morendo però col sorriso, le braccia e le gambe leggere. Il sogno. Ragazze giocano con me in un hotel, tutto molto divertente. Ma la mia vita non è fatta per questa runway. Dici di me che faccio solo danni. Tu che riparo sei per me, se quando piove non ci sei. Poi non capisco se mi ami, mi odi, mentre un'altra notte brilla sul mio body, body. Baby, move your body, body. Mi ami, mi odi, spengo queste voci mentre faccio voguing, voguing. Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi. Sul mio body, body, baby, move your body, body. Mi ami, mi odi, spengo queste voci mentre faccio voguing, voguing. Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi.